Ad alta voce. Paolo Pierobon legge Le avventure di Gordon Pym di Edgar Allan Poe. Traduzione di Elio Vittorini. In tutti i fatti che tornano a pregiudizio di qualcosa, non troviamo mai di che trarre delle conclusioni davvero sicure, neanche dai dati più elementari. Si può supporre che una catastrofe come quella riferita or ora avesse raffreddato la mia passione incipiente per il mare. Al contrario, fu proprio una settimana dopo il nostro miracoloso salvataggio che io provai, più che mai vivo, il desiderio di sperimentare le selvagge peripezie che intervengono nella vita di un marinaio. Questo breve periodo di tempo era stato sufficiente a cancellare dalla mia mente tutte le ombre e a portare in piena luce tutto l'eccitante e il pittoresco della nostra ultima pericolosa avventura. Le mie conversazioni con Augustus si facevano sempre più frequenti e crescevano in intensità di interesse. Egli sapeva raccontare le sue storie di mare, almeno metà delle quali ora ritengo siano state delle pure invenzioni, in una maniera tale da influire su uno come me, dal temperamento entusiasta e dalla fantasia sempre ardente, sebbene un po' cupa. Ed è strano che proprio nel descrivermi i momenti più terribili di sofferenza e di disperazione, egli riuscisse a svegliare in me il maggior interesse per la vita del marinaio. Verso il lato luminoso del quadro provavo appena una limitata simpatia, mentre non avevo altro per la mente che fame e naufragi, prigionia e morte fra tribù barbariche, tutta un'esistenza di dolore e di lacrime sopra qualche grigio scoglio desolato, in mezzo a un oceano inaccessibile e sconosciuto. Questi sogni, o per meglio dire desideri, poiché assurgevano addirittura a desiderio, sono comuni, mi è stato assicurato, agli uomini di temperamento malinconico. Ma all'epoca di cui parlo, io li prendevo per anticipazioni profetiche di un destino che mi sentivo, in un certo senso, obbligato a seguire. Augustus condivideva il mio stato d'animo. Anzi, è molto probabile che la nostra intimità ci abbia portato ad uno scambio reciproco di qualche tratto dei nostri caratteri. 18 mesi circa dopo il disastro dell'Ariel, la ditta Lloyd & Vredenburg, che aveva, ritengo, degli interessi in comune con la fratelli Enderby di Liverpool, pose in riparazione il brigantino Grampus, armandolo per un viaggio di caccia alla balena. Si trattava, in vero, di una vecchia carcassa capace a stento di tenere il mare, anche quando le si fossero fatte tutte le riparazioni possibili. Perché fu scelta a preferenza di altri vascelli che la stessa società possedeva in ottime condizioni, io non saprei dire, ma così avvenne, ad ogni modo. Mr. Barnard ne ebbe il comando e Augustus doveva accompagnarlo. Mentre l'equipaggiamento del brigantino era in corso, egli mi incitava ogni momento ad approfittare dell'eccellente occasione per soddisfare il mio desiderio di viaggio. E mi trovava, si capisce, assai ben disposto ad ascoltarlo, se non che la cosa non era tanto facile da realizzare. Mio padre non si scoprì contrario, ma la mamma cadeva in una crisi isterica ad ogni minimo accenno al progetto. E il peggio fu che mio nonno, sul quale fondavo tutte le mie speranze, giurò di non lasciarmi in eredità che lo scellino prescritto dalla legge, ove mi fossi arrischiato a parlargli della cosa ancora una volta. Queste difficoltà, lungi dall'estinguere il mio desiderio, ebbero l'effetto di ravvivarne la fiamma. Deciso a partire ad ogni costo, resi partecipe Augustus della mia intenzione, e così ci si mise a studiare il modo di condurla a compimento. Da allora mi guardai bene dal parlare più del viaggio coi miei parenti, e siccome feci mostra di occuparmi tutto nei miei studi abituali, ognuno credette che avessi rinunciato al progetto. Più volte in seguito sono tornato a esaminare la condotta che tenni in quell'occasione e sempre ne ho provato disgusto e sorpresa. La intensa ipocrisia di cui mi valsi per giungere all'adempimento del mio disegno, ipocrisia che per tutto quel tempo ispirò ogni mio atto e ogni mia parola, non avrei potuto mai sostenerla senza la strana e bruciante speranza che mi faceva vedere, prossimi a realizzarsi, i miei lungamente carezzati sogni di viaggio. Per tener dietro al mio stratagemma, mi era necessario lasciar fare parecchio ad Augustus, che passava la maggior parte della giornata a bordo del Grampus, incaricato da suo padre di badare a certe sistemazioni del quadrato e della cala. Però, la sera, non mancavamo mai di trovarci e di parlare delle nostre speranze. In tal modo, senza ancora aver scoperto nulla di sicuro, Per effettuare la mia fuga era passato quasi un mese quando ecco Augustus mi disse di aver provveduto a ogni cosa. Io avevo un parente a New Bedford, Mr. Ross, in casa del quale solevo di tanto in tanto andare a trascorrere 2 o 3 settimane. Il brigantino doveva salpare verso la metà di giugno, il giugno del 1827. Perciò rimanemmo intesi che un paio di giorni prima della partenza mio padre avrebbe ricevuto, come ogni volta succedeva, un bigliettino di Mr. Ross con la preghiera di mandarmi da lui a tenere compagnia ai suoi due figli Robert ed Emmett per una 15 giorni. Augustus si sarebbe incaricato di redigere questo biglietto e di farlo pervenire a destinazione. Fingendo così di recarmi a New Bedford, io avrei raggiunto il mio amico a bordo del Grampus, dove nel frattempo egli mi avrebbe preparato un nascondiglio. Questo nascondiglio, mi assicurò lui, sarebbe stato tale da permettermi di restarci comodamente per diversi giorni, e cioè fino a quando il brigantino si fosse inoltrato nella sua rotta abbastanza per non aver più da temere una possibilità di ritorno. Allora, mi disse, io avrei potuto essere ufficialmente ammesso a tutti i comodi del quadrato, poiché suo padre avrebbe riso di cuore della burla, mentre si sarebbero incontrati non pochi velieri per aver modo di mandare una lettera che spiegasse l'avventura ai miei genitori. Alla fine si giunse a metà giugno e le cose erano in punto per agire. Il biglietto fu scritto e spedito e un lunedì mattina uscii di casa dicendo di andare a prendere il battello per New Bedford. Si capisce, andai invece difilato da Augustus che mi aspettava la svolta d'una via. Secondo il piano prestabilito, io avrei dovuto tenermi nascosto a terra fino a buio e solo allora sgusciare a bordo del brigantino. Ma c'era intanto una fitta nebbia a favorirci, sicché convenimmo di non aspettar tempo per mettermi al sicuro. Augustus prese dunque la via del molo e io gli tenni dietro, a qualche passo di distanza, inviluppato dentro uno spesso gabbano da marinaio che gli aveva portato per rendermi difficilmente riconoscibile. Ed ecco, alla seconda cantonata, appena si fu passato il pozzo di Mr. Edmund, mi trovai di fronte, a guardarmi in pieno viso, niente meno che il vecchio Mr. Peterson, mio nonno in persona. Come? Benedetto Dio, Gordon! Egli fece dopo una lunga pausa. Oh, come, come? Di chi è questo sudicio gabbano che hai addosso? Signore, gli risposi, prendendo come meglio potevo e come le circostanze lo esigevano un'aria di offeso stupore e parlando nel tono più aspro che si possa immaginare. Signore, voi vi sbagliate, a quanto pare. Anzitutto, non mi chiamo affatto Godin. E poi vi auguro di vederci un po' meglio per non arrischiarvi un'altra volta a chiamare sudicio un gabbano nuovo come il mio, ma scalzone che non siete altro. Non so come riuscii a trattenermi dallo scoppiare in una risata dinanzi al modo bizzarro col quale il vecchio signore ricevette questo solenne rabbuffo. Egli diede addietro di 2 o 3 salti e prima si fece pallidissimo, poi rosso di fuoco e si tolse gli occhiali, se li rimise, infine mi si scagliò addosso brandendo l'ombrello, ma tosto si fermò nella sua furia, come d'un tratto colpito da qualche ricordo, e, voltate le spalle, se ne andò zoppicando giù per la strada, tutto ancora fremente di collera e brontolando tra i denti. Che diamine, con gli occhiali nuovi, pigliarlo per Gordon, maledetto buono a nulla d'un marinaio! Dopo averla scappata così, proprio per un pelo, proseguimmo il nostro cammino con la più grande cautela e arrivammo sani e salvi a destinazione. A bordo c'erano solo 3 o 4 uomini che si davano un grande affare intorno ai boccaporti della cambusa. Da parte del capitano Barnard avevamo ben poco da temere, poiché egli si trovava presso il Lloyd e non ne sarebbe tornato prima di sera tardi. Augustus salì per primo a bordo. Io lo seguii subito senza essere notato dagli uomini intenti al lavoro e andammo dritto al quadrato che trovammo deserto. Era questo sistemato nella maniera più confortevole, cosa alquanto insolita a bordo di una baleniera. C'erano poi 4 magnifiche cabine con larghe e comode cuccette. E io notai che tanto il quadrato, quanto ognuna delle cabine avevano il pavimento ricoperto di un prezioso e spesso tappeto ed erano forniti di una grande stufa. Il soffitto era un'altezza di 7 piedi. Tutto, insomma, appariva molto più vasto e piacevole di quanto mi fossi aspettato. Augustus, però, insistendo sulla necessità di nascondermi il più presto possibile, non mi diede tempo di starmene lì a contemplare e mi condusse nella sua cabina, che si trovava situata a tribordo proprio a ridosso della paratia che divideva il quadrato dalla cala. Appena entrati, egli chiuse la porta e tirò il catenaccio. E a me parve di non aver mai visto prima una cameretta più graziosa di quella nella quale mi trovavo. Poteva essere lunga 10 piedi e conteneva una sola cuccetta, che come ho già detto era larga e comoda. Nella parte più vicina alla paratia c'era uno spazio di 4 piedi quadrati occupato da un tavolo e una seggiola cui sovrastavano delle mensole cariche di libri, tutti per lo più di argomento marinaro. Fra molte altre piccole comodità che si notavano nella cabina, c'era poi anche una specie di armadio a ghiacciaia nel quale Augustus mi mostrò un assortimento completo di ghiottonerie, sia da mangiare che da bere. Quindi egli si recò in un angolo dello spazio anzidetto e, chinatosi, fece pressione con le nocche delle dita su un certo punto del tappeto, dandomi così a vedere che una parte del pavimento, circa 16 pollici quadrati, era stata tagliata nettamente e riadagiata a posto. Alla sua pressione, questa parte si sollevò, in modo che lui poté passarci il dito sotto e spalancare lo sportello della botola, al quale il tappeto restava fissato da bullettine. Vidi che l'apertura era tale da lasciarci passare. Augustus accese una stearica con uno zolfanello, la cacciò dentro a una lanterna cieca, poi si infilò nell'apertura invitandomi a seguirlo. Feci come mi diceva, e allora lui tirò giù lo sportello assicurandolo al buco per mezzo di un chiodo e, naturalmente, di fuori, il tappeto riprese sul pavimento la sua disposizione primitiva senza lasciar vedere il minimo segno dell'apertura. La candela mandava una luce così debole che mi toccava procedere tastoni e con la più grande difficoltà attraverso l'ingombro confuso degli oggetti che ci circondavano. Tuttavia, i miei occhi si abituarono a poco a quell'oscurità e io potei muovermi con meno imbarazzo, tenendomi attaccato alle falde dell'abito di Augustus, il quale, alla fine, dopo aver girato e strisciato per tutto un dedalo di stretti passaggi, mi condusse dinanzi a una cassa allestata di ferro, come quelle che servono per il trasporto del vasellame di lusso. Alta circa 4 piedi e profonda più di 6, questa cassa era però strettissima. Vi erano posati sopra 2 grandi barili vuoti da olio e su questi si trovava ammonticchiata sino al soffitto un'enorme quantità di stuoie di paglia. Tutto intorno, poi, e in ogni senso, si vedevano ammassate più fitto possibile, pure sino alla volta provviste di bordo d'ogni genere in un miscuglio eterogeneo di gabbie, panieri, barili e balle, tanto che mi pareva un miracolo di essere riusciti ad aprirci un passaggio là in mezzo. Seppi in seguito che Augustus, aiutato solo da uno che non doveva partire col brigantino, aveva a bella posta preparato in quel modo lo stivaggio della cala per rendere sicuro il mio nascondiglio. Quindi il mio amico mi fece vedere che una delle pareti della cassa poteva essere tolta a piacere. Difatti, la lasciò scivolare e mi mostrò l'interno, la cui disposizione mi divertì oltre ogni dire. Un materasso preso da una delle cuccette ne copriva il fondo per intero. Il resto dello spazio era occupato da ogni sorta di piccole comodità, in modo però da permettermi di starvi seduto o disteso, come mi fosse piaciuto, in tutta la mia lunghezza. C'erano fra l'altro dei libri, penna, inchiostro e carta, 3 coperte, una grande brocca piena d'acqua, un caratello di gallette, 3 o 4 enormi mortadelle di Bologna, un formidabile prosciutto, una coscia fredda di montone arrosto e 6 o 7 bottiglie di cordiali e liquori. Presi subito possesso del mio minuscolo appartamento con più soddisfazione di un monarca all'atto di entrare in un palazzo nuovo. Augustus mi spiegò il modo di fissare la parete mobile della cassa, poi, alzando la candela verso il soffitto della stiva, mi mostrò il capo di una corda nera che vi si trovava attaccata. Quella corda, mi disse, serpeggiando di là attraverso tutto l'ingombro della cala, conduceva sino a un chiodo piantato nel ponte proprio sotto alla botola che metteva nella sua cabina. Per mezzo di essa, soggiunse, io avrei potuto facilmente trovare il mio cammino senza che egli mi facesse da guida, nel caso che qualcosa di imprevisto me lo avesse reso necessario. Thank you. questo, egli si congedò da me, lasciandomi la lanterna insieme a una copiosa quantità di candele e di zolfanelli, e promettendomi di venire a trovarmi tutte le volte che avrebbe potuto farlo senza destare sospetti. Circa un'ora dopo che se ne fu andato, avvertii distintamente il brigantino mettersi in moto e mi rallegrai di cominciare così, bellamente, un vero viaggio. Tutto pieno di quest'idea, mi decisi a prendere la cosa con animo tranquillo e ad aspettare che gli eventi mi permettessero di lasciare quella stretta cassa per le comodità, più larghe ma non certo più confortevoli, della cabina. La mia prima cura fu di impadronirmi dell'orologio. Posai sulla cassa la candela accesa e, a tastoni, seguii nella penombra la corda nelle sue giravolte innumerevoli, a qualcuna delle quali mi accorgevo d'essere ricondotto, pur dopo aver percorso un buon tratto di cammino, a solo uno o due passi di distanza dalla posizione primitiva. Infine, mi trovai all'altezza del chiodo e, raccolto l'oggetto del mio viaggio, me ne tornai sano e salvo al mio nascondiglio. Esaminai allora i libri di cui ero stato così avvedutamente provvisto e ne scelsi uno che trattava della spedizione di Lewis e Clark alle bocche del Columbia, col quale mi dilettai per un pezzo fino a che, preso di sonno, spensi con ogni cura la candela e mi addormentai profondamente. Poi mi svegliai con la mente tutta confusa e fu dopo un certo tempo che riuscii a ricordarmi per quale seguito di circostanze mi trovassi là. Comunque, poco alla volta, ritornai in possesso della mia memoria. Accesa una candela, guardai l'orologio. S'era fermato. Di conseguenza, io non avevo alcun modo di giudicare quanto fosse durato il mio sonno. Mi sentivo le membra tutte indolenzite e per sgranchirmele fui obbligato a levarmi in piedi fuori dalla cassa. Avevo una gran fame. Pensai al montone freddo che avevo assaggiato prima di addormentarmi e che mi era parso eccellente. Ma quale non fu il mio stupore a trovarlo in uno stato di putrefazione assoluta? Questa circostanza mi mise in apprensione, per cui, associandola a quella del disordine mentale provato al risveglio, cominciai a credere di aver dormito straordinariamente a lungo. Forse ne era stata causa l'aria pesante della cala, ciò che poteva portare anche a più serie conseguenze. Mi doleva la testa, fin troppo. Mi pareva di respirare con difficoltà. In breve, ero sotto l'influenza di una moltitudine di tetri pensieri e inoltre non osavo arrischiarmi ad aprire la botola o a fare qualcosa che potesse destare allarme, per cui, limitandomi a ricaricare l'orologio, cercai di rassegnarmi alla situazione. Intanto il rullio del brigantino mi dimostrava che eravamo in pieno oceano e un sordo rumore rombante che mi giungeva all'orecchio come da una distanza immensa mi lasciava capire che soffiava una brezza niente affatto ordinaria. Non sapevo come spiegarmi l'assenza di Augustus. Di certo si era camminato abbastanza perché mi fosse permesso di mostrarmi sul ponte. Poteva essergli capitato qualcosa, e però io non riuscivo a immaginare nulla che lo costringesse a tenermi così a lungo prigioniero, a meno che non fosse improvvisamente morto o cascato in mare, pensiero che mi era insostenibile anche nella sua minima sfumatura. Oppure poteva darsi che si avesse il vento in prua e non ci si fosse ancora allontanati abbastanza da Nantucket. Presi la risoluzione di attendere ancora 24 ore, trascorse le quali, se non avessi ricevuto alcun soccorso, mi sarei diretto alla botola per cercare di avere una spiegazione col mio amico o perlomeno respirare un po' d'aria fresca attraverso l'apertura e procurarmi in cabina una nuova provvista d'acqua. Mentre andavo elaborando questo progetto, ecco che, malgrado tutti i miei sforzi per tenermi desto, caddi in un sonno profondo, anzi a dir meglio, in uno stato di torpore. Feci i sogni più terribili. Orrore, calamità d'ogni specie si abbattevano su di me. In mezzo ad altre miserie che mi affliggevano, mi pareva che demoni di sinistro e feroce aspetto mi soffocassero sino a morte sotto enormi cuscini. Quindi la scena cambiava in piedi, ignudo, e solo io mi trovavo fra le sabbie infuocate del Sahara. Accoccolato ai miei piedi c'era un feroce leone dei tropici. All'improvviso apriva gli occhi selvaggi e lanciava il suo sguardo su di me. Con uno scatto convulso saltava in piedi, mi mostrava i denti, orribile a vedersi, quindi dalla sua gola rossa emetteva un ruggito simile al tuono dei cieli e io mi abbattevo pesantemente al suolo. Nel parossismo del terrore mi riducevo sul punto di svegliarmi. Il mio sogno, allora, non era del tutto un sogno? Mi sentivo nel pieno possesso dei miei sensi. Le zampe di un vero mostro enorme mi opprimevano il petto e avevo nelle orecchie il caldo respiro della bestia, le cui zanne di sinistro candore mi brillavano vicino alla faccia nelle tenebre. Quando anche a salvare la mia vita non avessi dovuto fare altro che muovere un braccio o pronunciare una sillaba, io non ero capace di muovermi né di parlare. La bestia, qualunque essa fosse, manteneva la sua posizione senza mai cominciare ad attaccarmi, e io, in uno stato di assoluta impotenza e ritenendomi prossimo alla morte, me ne restavo supino nelle sue grinfie e sentivo che tutte le mie facoltà fisiche e morali mi abbandonavano e che, in una parola, stavo per morire semplicemente di paura. Mi si annebbiava il cervello, nausee mortali mi assalivano, la vista mi si confondeva, gli occhi scintillanti che mi fissavano diventavano anch'essi oscuri dinanzi a me. Con un ultimo sforzo disperato rivolsi a Dio una debole preghiera e mi rassegnai alla morte. Il suono della mia voce parve eccitare la collera latente dell'animale. Esso mi venne addosso in tutta la sua lunghezza, ma a mio grande stupore, dando in un sordo e prolungato lamento, si mise a leccarmi la faccia e le mani con vivace esuberanza e con le più pazze dimostrazioni di affetto e di gioia. Ero trasecolato, smarrito per la sorpresa, ma non avevo dimenticato il lamento caratteristico del mio Terranova, Tiger, e conoscevo benissimo la sua stravaganza nelle carezze. Si trattava proprio di lui. Sentii rifluirmi d'un colpo il sangue alle tempie, sotto una violenta, vertiginosa impressione di rinascita liberatrice. Scattai in piedi dal materasso sul quale stavo disteso e, gettandomi al collo del mio fedele compagno ed amico, trovai sollievo. A tutto ciò che mi aveva così a lungo oppresso il cuore, in un torrente di lacrime appassionate.